erba fior del fango, allacciamoci in un mango, questo è il nostro capotango. Rolando, balliamo un capotango, stringimi forte al petto, è il battito del cuore. Rolando, mi sento una gitana, tu hai mago la ventana, mi fa gelar d'amore. Mai abbassare lo sguardo, no, questo mai. Se tu continui a ballare stringendo lei, che non sa come me quanti tacchi da consumare, scoprirà presto che questo tango Elena, la nostra è una catena, ti stringo volteggiando in questo capatango. Oh, delusa, a volte anche gelosa, ti stringo nuclissando, ti lascio grazie tango. Mai abbassare lo sguardo, no, questo mai. Se tu continui a ballare stringendo lui, che non sa come me quanti tacchi da consumare, scoprirà presto che questo tango Rolando, Rolando, Rolando, olè. Grazie.